edizione. Le 6 e 15 minuti, ancora ben svegliati, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Prima edizione per raccontarvi quelle che sono le notizie più importanti di queste prime ore del mattino. Come di consueto cominciamo anche dando uno sguardo ai quotidiani che troverete in edicola, ma già vi dico che non troverete quella che è la principale notizia della notte, che cambia già lo scenario di questo martedì 20 settembre, perché nella notte l'agenzia di rating americana Standard & Poor's ha deciso di tagliare il rating sul debito italiano, portandolo da A+ ad A. Ne parleremo tra poco anche con un collegamento con gli Stati Uniti, ma dicevamo il consueto appuntamento è prima con l'apertura dei quotidiani di questa mattina, quotidiani che ovviamente puntano sempre sulle questioni economiche, ma sulle notizie della giornata di ieri, a cominciare dalle parole di Angela Merkel che hanno non poco destabilizzato l'Europa e i mercati. Se crolla l'euro, addio Europa, allarme della Merkel, il titolo d'apertura del Corriere della Sera, paura per la Grecia, giù le borse. Stessa apertura un po' per tutti i quotidiani, la Repubblica, la Grecia affonda, paura in borsa, Merkel, se cade l'euro cade l'Europa, la Stampa, Merkel, senza l'euro crolla anche l'Europa, e a fianco l'appello di Emma Marcegaglia al governo, il tempo è scaduto, serve discontinuità. Il Sole 24 Ore, Merkel in campo a difesa dell'euro, la cancelliera, se crolla la valuta crolla l'Europa, ma Atene spaventa le borse, a centro pagina sul Sole 24 Ore il piano anti-deficit da 3.600 miliardi del presidente americano Obama. Altre notizie che trovate sui quotidiani di questa mattina, ancora tornando al Corriere della Sera, al centro pagina dedicato a un altro tema, la contesa sui giacimenti, Atene pronti ad intervenire, alta tensione su Cipro con il primo ministro turco Erdogan che minaccia manderò la flotta. La tensione ancora tra Atene, ma in questo caso politica, tra Atene e la Turchia, dopo che il governo greco-cipriota ha avviato l'esplorazione di un giacimento sottomarino. La Grecia dice noi siamo pronti ad intervenire. Poi ancora il Corriere della Sera, mafia, le nuove accuse al ministro romano, il verbale del pentito lo verso, il boss ministro mi disse è nelle nostre mani. La Repubblica, centro pagina, ancora un'immagine di Silvio Berlusconi invece ieri al Tribunale di Milano, più vicina alla sentenza Mills, il PDL insorge, Berlusconi Tarantini si indaga sugli appalti. Una curiosità dalla Repubblica, al boom del parrucchiere cinese, negli ultimi due anni un incremento del 278%, aumentano anche bar, tintorie e centri estetici, tutti in mano ai cinesi. La Stampa, centro pagina, una notizia curiosa che sugli altri quotidiani non c'è, addio all'estate più pazza del mondo, dopo mesi instabili, la stagione finisce col freddo, nubifragi e trombe d'aria al centro-sud, ed è stata veramente una estate in altalena e non solo per le borse, ci racconta la Stampa. Il primo giugno ci furono forti piogge, il 28 giugno un'ondata di caldo, l'8 giugno una grandinata, il 18 luglio caldo estremo, il 19 luglio giornate autunnale, dal 15 al 26 luglio ancora grande caldo, il 27 agosto grande freddo e poi di nuovo il grande caldo e via via, davvero una borsa in altalena, e dicevamo non solo per i mercati. Così ancora l'ultimo sguardo alla Gazzetta dello Sport, l'Inter a Novara ultima chiamata gioca Pazzini, la Gazzetta dello Sport ci ricorda questa sera l'anticipo, mentre importante per decisivo per l'Inter. Queste le prime pagine dei quotidiani italiani che dicevamo non tengono conto, però noi con prima edizione ovviamente lo facciamo alle 6:19 del mattino della notizia arrivata nella notte, vale a dire l'agenzia Standard & Poor's che ha deciso di tagliare il rating sul debito italiano. Si puntava l'attenzione su Moody's, è arrivata Standard & Poor's. Allora andiamo a New York dove ci aspetta Mario Platero, buongiorno. Buongiorno, sì, notizia devo dire a sorpresa, come hai detto tutti si aspettavano un'azione da parte di Moody's e invece la decisione è venuta all'improvviso da Standard & Poor's, ha giocato d'anticipo, ha tolto diciamo un punto rispetto a quello che era il nostro voto e quindi siamo a questo punto a livello A, siamo 5 punti sopra quello che potrebbe essere considerato un junk bond, da A+ siamo ad A, il voto massimo ricordiamo il triplo A, E devo dire che questa notizia ha colto tutti un po' di sorpresa. Ma diciamo, avevamo tirato un sospiro di sollievo quando Moody's aveva deciso di rinviare il giudizio, e sì, invece sì, infatti, è arrivato altro. Infatti, io ricordo, guarda, abbiamo avuto delle telefonate qui in redazione, ci diceva: ma cosa faranno? Poi cosa decideranno? Ovviamente noi non possiamo sapere. Devo dirti che era nell'aria che potesse esserci qualche cosa da parte di Moody's non positivo. Moody's tra l'altro ha un voto migliore rispetto a quello che ci attribuisce in questo momento Standard & Poor's, ma le motivazioni direi, ecco, sono le motivazioni tre. sono molto, molto indicative, dire. Ecco, quali sono, Mario? Sono delle motivazioni, ti dicevo, secondo me piuttosto realiste, perché la gente segue il nostro paese, qualche volta c'è l'impressione che all'estero o fuori non si sappia bene che cosa succede da noi, invece lo sanno benissimo, lo sanno anche gli investitori ovviamente, e le motivazioni sono la situazione politica che resta incerta, il debito che resta comunque un debito importante e soprattutto la mancanza di prospettive di crescita. Questo nostro pacchetto di austerità è un pacchetto che punta soprattutto sulla riduzione del debito naturalmente, ma non ci sono delle misure di stimolo per la crescita. Ecco, questo ha preoccupato Standard & Poor's e la motivazione è molto chiara: non ci sono in prospettiva delle misure o delle ipotesi che possano essere rassicuranti per la crescita dell'Italia. Ecco, ovviamente dicevamo, i quotidiani italiani la notizia ancora non la registra in questo momento il sito del Wall Street Journal, che invece per questioni di fuso orario la notizia l'ha recepita ebbene, e quindi il titolo dedicato a noi è tagli del debito all'Italia, la crescita economica dell'Italia è debole e fragile per una coalizione di governo che renderà più difficile scongiurare la crisi radicale della zona euro. Quindi lo Wall Street Journal, diciamo così, ci mette come paese ancor più a rischio della zona euro, Mario. Beh, direi. E questa è la visione degli americani che hanno di noi, insomma. Riprende e sottolinea quelle che sono le motivazioni del comunicato di Standard & Poor's, nel momento in cui mette in evidenza quello che ti dicevo prima, il fatto che ci siano delle prospettive di crescita piuttosto scoraggianti, lo fa perché riprende quello che dice Standard & Poor's. Non c'è una editorializzazione nell'articolo del Wall Street Journal che ho letto poco fa, però c'è chiaramente l'indicazione di una situazione che si va aggravando, perché l'area euro resta a rischio, è una cosa questa che preoccupa molto il Presidente degli Stati Uniti d'America, ed è una settimana questa, direi, chiave, una settimana cruciale. Ci sono le riunioni del Fondo Monetario Internazionale che cominceranno fra qualche giorno, giovedì arriveranno i ministri finanziari a Washington, venerdì ci sarà un incontro del gruppo dei sette. Ecco, ci si chiede però che cosa di più potranno fare i ministri finanziari di quello che non fanno i governi, incontrati pochi giorni fa in Polonia. Grazie allora Mario Platero da New York, lo lasciamo andare a dormire, per lui è già notte a questo punto, sono le 6:24, grazie a Mario Platero. In Asia intanto che succede? Anche qui la notizia è stata ampiamente recepita, in questo momento vi dico che a Tokyo l'indice Nikkei perde l'1,54%, ovviamente non solo per la notizia italiana ma anche qui sui siti asiatici ovviamente la notizia è già stata recepita, pesa la crisi europea, pesa il deficit americano. Giusto per dirvelo, restando al Wall Street Journal, una chicca ancora in queste ore, l'apertura ovviamente non è dedicata all'Italia ma alla Grecia, ma anche ai duri scontri ormai che ci sono anche nella società greca. C'è la crisi greca, esige un pedaggio cruento, scrive il Wall Street Journal. Suicidi registrati hanno quasi raddoppiato da prima della crisi, l'economia si contrae, la società si sfilaccia tra le misure di austerità brutale. Ma chiudiamo questa pagina, torneremo però, vi prometto, a parlarne prima della chiusura di prima edizione alle 7. Andiamo dall'altra parte del globo, andiamo in Nuova Zelanda. E io saluto Flavia Carletti, buongiorno Flavia. Buongiorno a tutti voi. Allora, da te è pomeriggio, diciamo così, tardo pomeriggio, e andiamo in Nuova Zelanda perché oggi per gli azzurri del rugby c'è la sfida con la Russia. Si giocherà alle 9:30 ora italiana, meno 3 ore, e tu, Flavia, sei già con i tifosi italiani, giusto? Sì, esattamente, qui a Nelson oggi è una bellissima giornata di sole dopo alcune giornate molto variabili, quindi sembra che in qualche modo il sole sta salutando la giornata degli azzurri. E questa sera, come dicevi tu, appunto, c'è il calcio d'inizio fissato per le 19:30 ore locali, quando in Italia saranno le 9:30 del mattino, e la città si è svegliata già dedicando tutta la giornata alla palla ovale. A mezzogiorno c'è stata una spettacolare haka, che è la danza tradizionale maori, fatta sulle scalinate della cattedrale della città da 1200 studenti del Nelson College. Poi c'è stata una rievocazione della prima partita che si è giocata in Nuova Zelanda il 14 maggio del 1870, proprio qui a Nelson, ed è stata l'occasione per incontrare appunto i primi tifosi italiani che sono arrivati qui a Nelson per sostenere la squadra che questa sera si gioca una partita fondamentale per il proseguimento. Che dicono, Flavia? Che dicono i tifosi? Sì, adesso ti passo appunto uno dei tifosi che abbiamo incontrato, e adesso vi racconterà lui da dove viene e con chi è qui. Sì, pronto? Sì, allora, in Nuova Zelanda per vedere l'Italia, cosa ti aspetti oggi? Da dove vieni? Cosa? Perché lì? Innanzitutto sì, fantastico, siamo gli Old del Valsugana Rugby, le Ombre Rosse di Padova, e siamo qui saremo qui una settimana, saremo qui una ventina di giorni, siamo venuti a trovare il nostro grande amico tecnico neozelandese Chris Roden, che ha lavorato con noi 3 anni. Com'è il clima attorno alla nazionale italiana? Siete in tanti, tifosi italiani? Bella primavera. Sì, è una bellissima primavera, il clima che si respira qui intorno, molta felicità e frizzante, vediamo che si sente la partita, Grazie, grazie allora e grazie soprattutto alla nostra Flavia Carletti, mancano poco più di 3 ore, sono le 6:27 minuti in Italia, alle 9:30 italiane, l'Italia del rugby dunque giocherà. Grazie anche a Flavia Carletti dalla Nuova Zelanda. Prima edizione. Le 6:34 minuti, ancora prima edizione, ancora una buona giornata. Da Anna Migliorati, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È la mattina del 20 settembre, vi parla Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce. Esiste ancora la sinistra radicale in Italia? Dalle elezioni del 2008, Rifondazione Comunista e i comunisti italiani non sono più rappresentati in Parlamento e nemmeno nel Parlamento europeo. Eppure nel 2006 alla Camera Rifondazione prese il 5,8% e i comunisti italiani il 2,3%, qualcosa come 3 milioni e 100 mila votanti. Barbara D'Amico ne ha parlato con i militanti dell'attuale federazione della sinistra. La Rifondazione Comunista esiste ancora, non solo, ma in molte zone d'Italia, anche San Macchia di Gobardo, si presenta bene sul territorio. Come la Lega, i voti che l'ha preso tra parentesi dal mondo operaio, perché è stata capace sul suo territorio di interpretare i bisogni dei cittadini, cosa che noi non molto spesso purtroppo non l'abbiamo fatta, purtroppo abbiamo pochissime risorse e quindi è chiaro che all'interno del nostro partito il problema economico è diventato una questione fondamentale. Sembra che noi non esistiamo più perché siamo spariti un po' dai media, diciamo, dai giornali, dalle TV, eccetera. In realtà, oltre alla Rifondazione, insomma, il problema è che la sinistra in generale ha avuto appaga un po', secondo me, lo scotto di essere stata al governo, in qualche modo di essere stata responsabile del fallimento del centro-sinistra, insomma. La politica oggi è molto vissuta in modo mediatico, per cui Bertinotti era Rifondazione, era il leader che andava in TV, in realtà Rifondazione è un partito. Pare che Ferrero non viene invitato mai a nessuna trasmissione, adesso abbiamo avuto questa scissione con Sinistra Libertà e quindi una parte dei nostri voti va anche a Sinistra Libertà. Tu non sei personaggio e neanche puoi diventarlo, insomma. Vendola in qualche modo lo è e un po' lo diventa. Ma io penso ci siano stati dei problemi dopo 2008, la situazione dell'arcobaleno, e quindi questo ha un po' demoralizzato, diciamo, anche l'ambiente stesso del partito. Però se guardiamo un attimo l'esito delle elezioni sia europee che delle ultime regionali, come Rifondazione Comunista, come Federazione della Sinistra, c'è sempre una presenza e un radicamento nei territori. C'è una contraddizione forte su questo. Se io penso a Brescia, dove c'è una delle FIOM CGL più forti d'Italia, e poi il primo partito è la Lega. Questa è una contraddizione. Il partito ha continuato ad esistere al di là poi del fatto che fosse più o meno visibile sui mass media, e ha continuato ad esistere perché esistono e continuano a sussistere le ragioni della militanza in un partito anticapitalista. C'è stata un'emorragia di voti da un lato, però c'è stata anche una certa attenzione per la coerenza del partito. Era la prima edizione di Italia in Controluce. Ci risentiamo alle 13.30 su Radio 24. E dalla politica italiana con Italia in Controluce, Daniele Biacchessi, alla politica internazionale, perché dicevamo questa è una settimana importante a New York, al Palazzo di Vetro dell'ONU, dove si apre l'Assemblea Generale, con al centro la questione medio orientale. I palestinesi sono arrivati, decisi a chiedere il riconoscimento. Nella notte italiana già ci sono stati incontri importanti, si preannuncia una settimana davvero intensa di trattative diplomatiche, e allora cominciamo a fare il punto su quel che è successo nelle ultime ore. Saluto Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Da oggi, come dicevi, a New York si svolge la 66ª Assemblea Generale dell'ONU, che si conferma dominata dal nodo della richiesta di pieno riconoscimento di uno Stato palestinese che il presidente Abu Mazen intende presentare venerdì, ciò che si invoca un'azione del quartetto volta a sostenere la ripresa dei negoziati di pace. Dopo questa richiesta ufficiale di Abu Mazen, a quel punto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon dovrà, in base alla Carta delle Nazioni Unite, trasmettere immediatamente questa stessa richiesta al Consiglio di Sicurezza. Il presidente palestinese sostiene di avere il sostegno di oltre 126 paesi dei 193 che formano la CISE. Il primo ministro israeliano Netanyahu, dal canto suo, prima di partire per New York, si è detto interessato ad una riunione col presidente palestinese Abu Mazen e ha rinnovato il suo appello per una ripresa dei negoziati diretti tra Stato ebraico e ANP per poterli poi proseguire a Gerusalemme e a Ramallah. Ma sentiamo Netanyahu qualche mese fa cosa diceva. The status of the settlements will be decided only in negotiations. But we must also be honest. Ecco, appunto, diceva già alcuni mesi fa a Washington, a Campidoglio, che la sola via per Israele è quella dei negoziati. E Netanyahu, proprio in sede ONU, intende far conoscere la verità dello Stato ebraico per contrapporla alle rivendicazioni dei palestinesi. Il premier israeliano dice che l'iniziativa palestinese è destinata al fallimento, e domani sarà ricevuto dal presidente americano Barack Obama e prenderà invece la parola davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì, giorno in cui, come abbiamo già detto, appunto, parlerà anche Abu Mazen. Ecco, dicevamo, sarà però una settimana di intense trattative diplomatiche, perché gli Stati Uniti già non sono d'accordo. No, infatti il segretario di Stato americano Clinton ha spiegato come sia, mentre è in atto un'azione di diplomazia estremamente intensiva per evitare uno scontro all'ONU su questa richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese, nello stesso tempo anche gli Stati Uniti ribadiscono che la sola via verso una soluzione è quella dei negoziati. Gli Stati Uniti si oppongono ad azioni tese al raggiungimento di uno Stato palestinese e sono pronti a porre il veto. Il governo israeliano e quello americano affermano entrambi che uno Stato palestinese infatti può nascere soltanto da un accordo di pace con Israele. Le altre posizioni, per esempio quella del premier turco Erdogan, che dice una posizione difficile, quella degli Stati Uniti, difficile da comprendere e da sostenere. L'Assemblea dell'ONU comunque entrerà nel vivo domani, anche se già nelle ultime ore sono arrivati a New York numerosi premier e ministri degli esteri. Il presidente Barack Obama è già a New York, è arrivato accompagnato dalla moglie Michelle e parlerà domani mattina. È necessario dare ai palestinesi qualcosa di tangibile e non soltanto un annuncio che nasce uno Stato e poi nella realtà giuridicamente lo Stato non nasce. Queste le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Franco Frattini, che è già a New York, mentre il suo collega francese Alain Juppé ha affermato di temere un'esplosione di violenza in Medio Oriente. Lo scontro sembra infatti inevitabile e i palestinesi si aspettano tempi molto difficili. Ed è tutto. Grazie. Allora, ad Adriana Fracchia, dicevamo, si entra nel vivo domani e quindi avremo occasione di parlarne ancora nel corso della settimana. E noi voltiamo invece ora pagina. Innanzitutto vi leggo un'agenzia arrivata in questi minuti. Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,5 si è verificata all'1:44 della notte scorsa in provincia di Crotone, fra isola di Capo Rizzuto, Crotone e Cutro. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, al momento però non risultano danni a cose o persone. Vedremo invece che danni farà la notizia arrivata nella notte. Lo ripetiamo ancora: Standard & Poor's ha deciso di tagliare il rating sul debito italiano, portandolo da A più ad A. E allora io saluto il mio prossimo ospite, le 6:43 minuti, Paolo Madron, direttore di Lettera 43. Buongiorno. Allora, lo dicevamo anche prima parlando con New York e con Mario Platero, tutti gli occhi erano puntati su Moody's, tutti attendevamo cosa avrebbe fatto, è arrivata Standard & Poor's. Perché? Perché ora, secondo te? Ma, insomma, sulla tempestività di questi interventi delle agenzie di rating, che purtroppo non sono mai piacevoli, c'è da molto tempo una polemica, anche come dire, quando Moody's ha declassato per la prima volta il rating degli americani, gli americani non sono stati molto, molto contenti del timing. A guardare la motivazione è ineccepibile. Standard & Poor's dice: governo fragile, limitate che capacità della politica di rispondere alla crisi. E quindi eravamo stati avvertiti in maggio, ci aspettavamo Moody's, che, come hai detto tu, abbiamo avuto la beffa, perché ieri Moody's ha messo sotto osservazione il debito degli enti locali e di notte appunto questo intervento di Standard & Poor's. Ma insomma, mi sembra tutto quanto prevedibile. Ormai è chiaro che i mercati si sono fatti l'idea che il governo, questa maggioranza, o la politica italiana in generale, non è in grado di rispondere alla gravità della crisi del debito. Abbiamo parlato di una manovra scritta, riscritta, più dura, meno dura, che avrebbe dovuto cambiare le cose. Non basta, questo ormai è chiaro, almeno per le agenzie di rating, ma non solo. Sì, è chiaro per tutti che questa manovra non basta. Allora, da un lato, appunto, Standard & Poor's ci dice che, come dire, al di là del modo in cui è stata fatta questa manovra, ormai è evidente che c'è una crisi di credibilità, c'è un problema di credibilità. Dall'altra parte dice chiaramente, ma questo insomma non occorre la Standard per accorgersene, che è una manovra insufficiente, lo spread con i bund continua ad essere a livelli molto molto allarmanti, elevati, e è chiaro che occorrerà, del resto alcuni membri del governo, della maggioranza, cominciano già a dirlo in maniera più o meno esplicita, occorreranno provvedimenti aggiuntivi. Prima edizione. E con Prima edizione siamo ancora con Paolo Madrona, direttore Lettera 43. Chiedevo prima, che giornata dobbiamo aspettarci sui mercati a questo punto? Non credo bellissima. Questo non ci vuole, direi che ci vuole, non abbiamo bisogno della palla di vetro davvero. No, non è una decisione già digerita, appunto, perché, come dicevamo, in attesa, per quanto il giudizio sia in qualche modo sempre lo stesso. Ma insomma, io intanto oggi evidentemente immagino una persistente pioggia di vendite su tutti i bancari, evidentemente bancari italiani, ma insomma anche questa decisione Standard & Poor's avrà ripercussioni anche sulle banche estere, perché per esempio molto del debito italiano è detenuto da istituti di credito francese, comunque istituti di credito estero, quindi è chiaro che io credo che non ne risentiremo solo noi, perché ormai, come dire, è tutto un effetto evidentemente correlato. Credo che occorrerà purtroppo accelerare sulla che questa volta occorra andare in una direzione chiara e precisa del abbattimento del debito e che quindi non abbiamo più un'altra alternativa. Non insomma, ci sono assolutamente alternative, sono quella di una poderoso, chiamiamolo così, poi nei nomi evidentemente si può discutere, prelievo, una tantum, che dalle nostre tasche, che porti il debito, per essere chiari, 100%, insomma, questo del prodotto interno lordo, questo mi sembra ormai acclarato. Grazie a Paolo Madrona, direttore di Lettera 43, buona giornata. Nel frattempo mi ha raggiunto Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno, buongiorno Anna, eccoci. Allora, sfoglio i giornali, che sa, fortunatamente parlano d'altro, ma insomma Parlano anche di queste cose. Parlano anche di queste cose, ovviamente, non di questa notizia, ma oggi guardiamo le borse. Ti vedo guardare già i titoli delle borse. Sei i già titoli pronto? Delle borse, no, non ho i giornali di cristallo. Noi abbiamo provato così ad anticipare la giornata. Ma No, questo no. Vabbè, ci sono molti altri temi. Ci sono altri temi, anche altri temi, per esempio, politicamente io segnalo che è tornato Marrazzo, se è una notizia politica, ha fatto un dibattito con Storace, che è stato cattivissimo, ha detto non vorrei domani i giornali titolassero bacini tra Storace e Marrazzo. L'hanno titolato così? No, Marrazzo ha detto no, per carità. E poi insomma ci sono altre notizie come quella di una giudice che fu beccata in una regata nonostante avesse dei problemi fisici clamorosi, cioè è stata espulsa dalla magistratura, fu un caso, adesso è stata anche sanzionata con 6.700 euro di ammenda, graziata la Jeep che in malattia faceva le regate. Era in malattia ma andava a fare le regate. Magari le faceva bene, chi lo sa. Sì, era arrivata anche sesta, credo, quindi. Squadra al completo, grazie Alessandro Milan, Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia, tutti pronti per 24 mattino. Noi ci sentiamo invece tra poco con GR24, ancora una buona giornata da Anna Migliorati.